Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Ecco qui che la pancetta va via, la coscia si assottiglia, la chiappetta ritorna soda. Io ho preso proprio quello che tu dici. In cucina non bisogna mai aver paura di sbagliare, se si sbaglia chi se ne fude. Iniziamo come d'abitudine con il nostro diario sonoro che racconta un po' l'atmosfera della tavola della bufala in tavola. Dai, su, forza, sedetevi. Sono felice di essere con voi, accomodatevi perché c'è posto per tutti, ma, ricordatevi che noi siamo quelli che mangiamo insieme, ma giustamente distanziati. E proprio la canzone di Enzo Iannacci oggi ci accompagnerà, dando una sorta di sottotitolo al programma, perché oggi con gli amici che verranno a trovarci parleremo proprio di quelli che hanno sempre una fame da lupo, quelli che sono sempre a dieta ma continuano a spizzicare, quelli che mangiano solo una foglia di insalata ma tutto resta sullo stomaco, quelli che, ad esempio, proprio la domenica, saltano sempre il pranzo perché hanno sempre qualche piccolo problema, ad esempio il classico cerchio alla testa. Vi riconoscete in uno di questi profili oppure ne avete altri? Allora scrivetecelo, dai, sui nostri social che sono sempre a vostra disposizione. Intanto, seduti con noi solo virtualmente, Lucilla Titta, nutrizionista, ricercatrice e coordinatrice del progetto Smart Food di IEO, Istituto Europeo di Oncologia. Buongiorno dottoressa, benvenuta, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti. Dottoressa, ho invitato anche un cavaliere. Sono certa, sono certa che le piace molto. È bravo, simpatico, se la cava anche molto bene in cucina, è il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Stefano Erzegovesi. Buongiorno dottor Erzegovesi, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, troppo buona oggi. Ha visto? Complimenti. Sì, perché insomma noi abbiamo lei come cavaliere, dobbiamo un po' valorizzarlo, non che ce ne sia bisogno, vero dottoressa Titta? Bisogna... Ah no, senz'altro. Certo, bisogna tenerli stretti. Direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Dottoressa Titta, cosa ne pensa di questi profili? Vuole aggiungerne qualcuno? Ma mi sembra che descrivano bene molte situazioni, molti atteggiamenti che abbiamo tutti noi. E dottor Erzegovesi, lei ne aggiungerebbe altri? Lei si riconosce? Si riconosce? Sono molto fini, mi riconosco, come dire, ognuno di noi attraversa a seconda dei momenti dell'anno ognuno di questi profili, quindi insomma è una bella occasione per fare un po' quello che io ritengo il primo ingrediente di una cucina sana, che è la consapevolezza, cioè sapere cosa ci succede mentre ci sta succedendo, e quindi come dire, siamo pronti a poter dare un aiuto su questo. Allora, abbiamo distribuito equamente i profili ai nostri ospiti. Dottor Erzegovesi, parto da lei e parto da chi ha sempre una fame da lupo. È questione fondamentale. La fame da lupo è fisiologica e quindi tutto sommato non va né ostacolata né frenata quando siamo in crescita. E quindi pensiamo tipicamente all'adolescente che dice: mamma, fammi mezzo chilo di pasta. Ecco, mezzo chilo di pasta mai, perché è comunque troppo, ma il concetto è: ci sono fasi tumultuose di accrescimento in cui la fame è proprio l'espressione di cellule che richiedono sostanza per poter poi creare un organismo che, diciamo così, da cespuglio diventa un albero. Quindi un organismo che proprio cambia forma e cambia sviluppo. È vero, mi piace questa immagine, da cespuglio ad albero. Quindi, insomma, è un segnale positivo. Positivo, c'è un corpo che velocemente sta crescendo, però ricordiamoci che tutto questo capita in quegli anni della nostra vita, quando io sento persone che a 40 anni mi dicono è il mio corpo che me lo chiede e mangiano 4 porzioni di ogni buffet, dico no, è troppo. Quindi in quel caso, a proposito di consapevolezza, la questione è facilissimamente, per come è organizzata un po' anche il nostro modo di vivere, scambiamo per fame qualcosa che in realtà è emozione negativa. E quindi possiamo mangiare per rabbia, per noia, per tristezza, per aspettativa delusa o per altri aspetti di questo tipo. Quindi in quel caso, fame da lupo, la prima domanda da porsi è: sono sicuro che sia veramente fame? Nel dubbio magari cominciamo ad aspettare un attimo. Cioè, io ogni solito quando uno dice una fame da lupo, che è come se sentissi, come se mi mancasse l'aria, cioè come se sentissi l'esigenza di dover consumare subito tutto, la questione è: aspettiamo un attimo, perché se è fame vera, nel giro di una mezz'oretta lo stomaco, quindi pensate a quelle che sono le cosiddette farfalle, la fame vera, la fame da lupo, ci dà dei segnali che sono delle micro contrazioni a livello dello stomaco, quindi dei segnali periferici che si possono sentire. La fame da lupo, quella più emotiva, sì, quindi proprio il tema dell'alimentazione emotiva, è invece più una fame che ha a che fare con, ad esempio, iniziare a sognarsi un certo cibo, dire caspita, ma quel sapore così forte e così desiderato, proprio è come se non potessi fare a meno di pensare di proprio devo mangiarlo. E quindi qualcosa che ha più a che fare con un'urgenza, passatemi il termine un po' forte, che si avvicina di più come meccanismo neuronale all'urgenza della crisi di astinenza, quindi qualcosa che ha meno a che fare con la fame intesa proprio come fame fisiologica. Ma una fame da lupo, dottor Arzegovesi, potrebbe essere banalmente il segnale di una distribuzione dei pasti non corretti. Ad esempio, una fame da lupo, non faccio colazione, certo che arrivo a mezzogiorno, mangerei darei un morso al bracciotto di Carmelo Lauricella, che è in regia la parte tecnica. Non che abbia il bracciotto, lui c'ha il muscolo, però tanto per... Vabbè, insomma, un po' di carne. Un po' di carne c'è. Assolutamente sì, cioè in quel caso ricordiamoci sempre che il nostro meccanismo della fame e della sazietà funziona con una specie di onda lunga, l'onda lunga dei nostri antenati, che se andavano in debito energetico, quando trovavano del cibo avevano un naturale istinto ad eccedere, perché il concetto è: se vieni da una fase di carestia, è bene quando trovi cibo mangiarne anche per fare grandi scorte, e questo chiaramente ci espone molto a fami da lupo, ma che sono legate a ritmi scorretti proprio nel dare i tempi dei nostri pasti. E a proposito di tempi e tempo, è tempo di fermarci, riprendiamo subito dopo insieme al dottor Arzegovesi e alla dottoressa Lucilla Titta. Profili, intanto raccontateci il vostro profilo: fame da lupo, un po' invece sempre a diete, spizzicate qua e là, niente vi soddisfa, passate davanti a magari alla tavola e dite ma non ho tanta fame, oppure avreste voglia di mangiare ma oddio quel cerchio alla testa mi destabilizza un po'. Allora continuiamo a stare insieme, intanto voi scrivete sui nostri social, ci sentiamo tra pochissimo. La bufala in tavola. Buona domenica a voi che mangiate con noi alla tavola della bufala in tavola, grazie, sono felice dei messaggi che ci mandate, dei suggerimenti, delle critiche, degli spunti, siamo contenti di fare queste belle tavolate domenicali, si sta bene, abbiamo insieme a noi la dottoressa Lucilla Titta, abbiamo il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Arzegovesi, stiamo tratteggiando dei profili per cercare di capire alcuni nostri comportamenti, alcune relazioni che abbiamo con alcuni alimenti o alcuni pasti della giornata, per trovare naturalmente non solamente spiegazioni ma anche indicazioni per ritornare ad un sereno, equilibrato, positivo e nutriente e sano rapporto con il nostro cibo. Dottoressa Titta, abbiamo parlato di quelli che hanno una fame da lupo, ma ci sono anche quelli che non hanno mai fame. sì. Sono un po' invidiati, dottoressa Titta. Sono un pochino invidiati. Però non è bello non sentire mai appetito. Che cosa significa? Quali potrebbero essere le ragioni? Ma ci possono essere tante ragioni della disappetenza, anche patologie, quindi... Però guardiamo un po' quello che può essere più comune. Sì. Spesso non avere appetito, avere mal di testa, specialmente la mattina o comunque per pranzo, può essere dovuto anche al fatto che si è esagerato la sera prima. Quindi questo può succedere, specialmente se si beve alcol, ad esempio. Questo può provocare poi il famoso hangover, quindi nella mattina seguente si può accusare mal di testa, appunto non aver appetito, e quindi tanto vabbè, sarebbe importante non esagerare mai con l'alcol, perché sappiamo che è un fattore di rischio per tante patologie. Assolutamente. Quindi, Non solo per quelle che ci immaginiamo di più, come quelle del fegato, le patologie cardiovascolari, ma anche altre patologie, per esempio le oncologiche, che è poco risaputo. Quindi piano con l'alcol, un'unità alcolica al giorno per le donne massimo, 2 per gli uomini, se si beve, e se appunto si è esagerato, che ovviamente può capitare, l'importante è l'idratazione, perché l'alcol è molto disidratante e spesso il mal di testa del giorno dopo è dovuto proprio alla mancanza di idratazione. Spesso basta bere mezzo litro di acqua e si risolve il mal di testa e È come se lavasse. Guadagna l'appetito. Ecco, dottoressa Titta, è come un po' se lavasse gli effetti e le conseguenze degli stravizi. Dottor sì. Arzegovesi, ma c'è chi è inappetente di base, proprio di costituzione, quelli che insomma niente gli piace? E l'inappetenza spesso ha a che fare, ugualmente al di là delle patologie che diceva Lucilla, l'inappetenza può essere legata a una difficoltà a percepire le sensazioni interne, quindi è tipicamente ad esempio di certe fasi dello sviluppo dei bambini, che sono le fasi dai 4 ai 6 anni, diciamo, quando c'è un po' un cambiamento di vita, si va in un mondo dove ci si sente più responsabili, dove si inizia ad avere le aspettative degli altri, i primi voti, perché cominciano le scuole elementari. In quella fase spesso ci sono bambini che si mostrano, come potremmo dire, naturalmente disinteressati al cibo. E il naturale disinteresse deve fare pensare al genitore o all'insegnante, perché spesso questa è una cosa che si vede nelle mense, deve pensare che c'è un senso di poca familiarità con l'ambiente o di pressione che viene percepita rispetto all'ambiente esterno. Questo è sempre un segnale. A tavola noi, soprattutto quando siamo piccoli, di fatto comunichiamo col mondo qualcosa che va molto bene o che non va bene. E quindi in quel caso rimaniamo sintonizzati su questo segnale e mai, mi raccomando, mai risolvere la questione con la coercizione. Ci sono studi scientifici molto accurati che fanno vedere che la coercizione, cioè mangia tutto, se non ti mangi il piatto non ti alzi dalla sedia, l'effetto è come minimo neutro, cioè non fa né male né bene, come massimo è un effetto uguale contrario, per cui più c'è coercizione più io sono portato a obbedire e quindi a non sentire più. Certo, ma dottor Arzegovesi, quale consiglio lei si sente di dare ai genitori di questi bambini che sono temporaneamente disinteressati al cibo, insomma? Le mamme, momento... le nonne poi si attrezzano e ti faccio le polpettine e proviamo col risottino, però il bambino rimane sempre così. Cioè, non gli va. Al momento cercare appunto non forzare, quindi soprattutto cosa non fare, ma contemporaneamente cercare di aiutare il bambino a trovare attraverso il gioco, attraverso la condivisione, un canale per poter raccontare come si sente. A volte capita di bambini che semplicemente per poter dire, riuscendo a dire ci sono rimasto male, che mi hanno detto che non ero bravo a scuola, il potere amore, semplicemente tradurre in parole qualcosa che normalmente viene tradotto con gesti, già questo è come se in qualche modo un pochino aprisse lo stomaco. Quindi è quello, se non è che dobbiamo diventare tutti psicologi. Certo, assolutamente. Però il canale fammi capire come stai, perché piuttosto che mangia tizio, mangia questo, mangia quello, sicuramente è da lì che poi viene la soluzione. Dottoressa Titta, dai bambini saliamo ai grandi che sono sempre a dieta. Ci sono persone che sono a dieta perenne, ma spizzicano qua e là. Scusa, non sai, sono a dieta, mi faresti assaggiare? Possiamo fare a metà? Mi daresti un quartino? Ma lo mangi tutto? Perché io, ecco, lei ride, però... È il mio profilo preferito. Anche il mio. Profilo preferito perché è capitato anche a me in certe fasi. Capita quando si cerca di controllare il peso, no? E un po' tutti noi, insomma, è capitato di voler controllare il peso autonomamente, quindi magari appunto senza rivolgersi a un senza la dottoressa Titta, il dottor Erzegovesi, dai, mangio un po' meno, che problema ci sarà, però... Anche perché sono situazioni di lieve sovrappeso e quindi uno non si sente giustamente. E questo cosa succede? Succede che si limitano fortemente... i pasti principali, cioè generalmente si tagliano i carboidrati. Sì. Quindi, non so, a pranzo o a cena si consuma appunto il petto di pollo, l'insalata, sempre qualcosa di comunque un po' così triste, un po' privativo, deve avere un po' il carattere privativo, e poi chiaramente non si è sazi, non si è fatto un pasto completo e quindi dopo pochissimo si ha fame, si ha voglia di dolce tipicamente. Siccome si è stati bravi, tra virgolette, per me cattivi, ma bravi durante il pasto, ci si concede, no, lo sgarro, lo spuntino, la cosa, il gelato, tanto stato indietro durante il pasto principale. E questo genera in realtà un meccanismo molto poco efficace alla perdita di peso, proprio per la perdita di peso. Quindi in realtà ci si fa un po' del male. È molto importante anche quando si decide di intraprendere un percorso anche breve, anche appunto su un lieve sovrappeso, fare sempre dei pasti completi con una fonte di carboidrati, meglio integrali, delle proteine, della verdura, della frutta, quindi avere un pasto saziante che poi ci piace, quindi non identificare il controllo del peso con pasti privativi, tristi, smorti, certo. Assolutamente, è controproducente, quindi importante fare dei pasti completi, anche se spesso i miei pazienti mi guardano con due occhi così, dicono come la pasta la sera, siamo impazziti, invece no. È importante anche la sera avere una fonte di carboidrati complessi, perché questo ci aiuta a essere più sazi, più soddisfatti e non andare a cercare tutti gli spuntini. Anche perché poi finisce che cerchiamo sempre un alleato che si sacrifica per fare sempre a mezzo con noi, vero? Esatto. Di solito sono i fidanzati, i mariti, oppure il famoso dolce al ristorante, dai. No? Ma noi... io non lo prendo, dai, semmai ti aiuto. Esatto. Ecco, mio marito mi dice sempre, ma io non ho bisogno di essere aiutato, prendi per te. Dottor Erzegovesi, vengo da lei per parlare di quelli che mangiano la fogliolina di insalata, pam, resta sullo stomaco. E qui però mettiamoci un attimo nei panni della foglia di insalata, cioè nel senso... Non mi lanci un'altra campagna, perché le zucchine, la campagna per le zucchine gentili l'abbiamo fatta, cioè, ecco. Adesso sulla foglia di insalata mi spiazza un po'. Una nuova campagna, mettiamoci nei panni della foglia di insalata, cioè la foglia di insalata non è lì per essere mangiata da noi, ma è lì per produrre tante piccole foglie di insalata nelle generazioni future, quindi per non estinguersi. Questo cosa vuol dire? Che naturalmente ce la fa pagare, fatta per non essere appetibile. E quindi se ci pensiamo, quali sono i due gusti prevalenti di una foglia, soprattutto se è una foglia verde scuro, che peraltro sono le foglie che ci fanno meglio dal punto di vista della salute. I due componenti principali sono l'acqua, che sa di acqua, cioè non sa di niente, e sono le sostanze amare, e quindi tutta la categoria dei polifenoli o delle clorofille, quindi quelle che danno il colore alle foglie, che hanno comunque un retrogusto amaro. Questo in persone, moltissimi di noi, può essere circa il 30% di noi, che sono particolarmente sensibili al gusto amaro, sensibili in senso negativo, mangiano un'insalatina, ma magari anche scondita, quindi la cosa assolutamente che tristezza, semplice, e non la digeriscono, proprio fisicamente gli si pianta sullo stomaco. Il consiglio spassionato è: mettetevi nei panni della foglia di insalata e cercate di capire che la foglia di insalata da sola non potrà mai essere qualcosa che vi dice mangiami perché non vedo l'ora che tu mi mangi, è qualcosa che dice non mi mangiare perché io mi sto difendendo in qualche modo da te. Ma noi cosa facciamo? Creiamo una bella ciotola di insalata dove aggiungiamo gusti e consistenze differenti. E qua si sta risvegliando, attenzione, si sta risvegliando il nostro medico cuoco, quasi cuoco, perché tra poco ci darà la ricetta di un'insalata che, dottore Rozegovesi, è un po'... Che ha tanti caratteri e sono caratteri che se noi capiamo la digeriremo benissimo e saremo anche molto felici di finirla. Restate lì, è il momento dell'insalata. Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. La bufala in tavola. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Beh, insalatina, insalata, insalatona, insalatuccia. Dottor Rozegovesi, qual è il momento migliore per mangiare l'insalata nel menù? Si apre, si... Assolutamente all'inizio, quando si dice... Quanto sono brava, ma quanto sono brava! Ma le sa sempre tutte la Nico? Le so? Ecco, l'antre deve essere l'inizio, perché c'è una massima predisposizione ad assorbire bene i principi attivi delle verdure, ma soprattutto questo ci aiuta moltissimo rispetto a quello che mangeremo dopo. E quindi il senso di sazietà, ma anche comunque il senso di avere già sentito dei sapori, ci aiuta poi ad avere un pasto molto più calmierato. Quindi facciamoci portare ovunque siamo un piatto di verdura per cominciare il pasto. Questa stagione l'insalata prima di tutto. Dottoressa Titta, la consiglia anche lei alle persone che segue, che magari dicono ho molta fame oppure spizzico, sono sempre a dieta, una bella insalata che insomma toglie la più grossa, come dico io? Assolutamente, io sono d'accordissimo con Stefano, la verdura sempre prima la verdura, d'estate l'insalata in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue versioni. Foglie e fogliette. Aiuta tantissimo, foglie e fogliette, ed è anche un modo appunto per poi non così anche essere più controllati per il resto del pasto, è comunque piacevole, fresca. Consiglio sempre la verdura per iniziare i pasti. Però noi consigliamo un'insalata speciale, l'insalata del nostro medicuoco quasi cuoco. Ta-tan, dottor Rozegovesi, eccoci pronto. Adesso allora, mi tolgo il camice da Rozegovesi e indosso quello da medicuoco. Grembiulone a lei. Ecco, l'insalata, c'è una frase di Marcella Hasan, che è questa cuoca bravissima italiana che di fatto ha insegnato agli americani a mangiare italiano, quindi a mangiare meglio, che parla per la buona insalata che noi abbiamo. Sì, dovrebbero farle un monumento gli americani. Assolutamente, anche perché riuscire a cambiare una mentalità che era quella delle uova e pancetta sempre è stata fatto un lavoro veramente meritorio. Non è più tra noi, questo un motivo anche per ricordarla, certo. Lei dice le quattro persone che servono per fare una buona insalata. una persona giudiziosa per il sale, dove giudiziosa non vuol dire non metterlo, ma vuol dire capire che verdura abbiamo, perché ad esempio se abbiamo un sedano, che è una verdura di suo naturalmente salata, stiamo un po' più leggeri, con altre verdure un po' più diluite invece il sale le arricchisce o toglie anche una vena di amaro. Quindi giudizio con il sale, generosa per l'olio d'oliva, e noi qui alla Bufala in Tavola ne parliamo spessissimo, l'olio d'oliva è un medicinale e non è semplicemente un saporito e utile condimento. Una persona avara per l'aceto o per il limone, cioè avara per quella che è la componente di acidità. L'acidità è come avere in mano uno strumento di grande potenza. Se siamo in piccole dosi, esaltiamo al massimo la freschezza, la bontà e i sapori di tutto il resto delle verdure. Se esageriamo, sentiamo solo l'acido e quindi automaticamente c'è bisogno di un po' di avarizia, meglio un po' di meno, diciamo, che un po' di più. E per finire, la caratteristica che mi piace di più, perché è quella più vicina alla consapevolezza, allo scorrere del tempo e quindi alla parte più, diciamo così, psico di noi, ci vuole una persona paziente per girarla e mescolarla bene. Cioè, può sembrare una banalità, ma se noi mangiamo un'insalata dove ci sono delle zone asciutte, delle zone salate tanto, delle altre meno, di fatto avremo questa sensazione di contrasto per nulla piacevole. È vero. Se noi la mescoliamo bene, ma bene vuol dire proprio prendersi quei 30 secondi per mescolarla, non facciamoci problemi. Se ci va, mescoliamola anche con le mani, perché è una sensazione di riuscire attraverso le mani ad amalgamare, quando ad esempio con le due classiche posatone da insalata spesso non ci viene bene, e l'ideale è poterlo fare con calma, ma non dobbiamo stare lì le ore, qualche secondo, lasciarla riposare un attimo, 2-3 minuti, e poi gustarla. E mi raccomando, le consistenze, l'insalata ha bisogno di consistenze che non possono essere solo la lieve croccantezza della verdura o della foglia, ma pensiamo, vogliamo mettere un pochino di insalata pantesca dentro qualsiasi nostra insalata, facciamolo, che vuol dire 4 dadini di patate, un po' di olive, di capperi, prezzemolo e origano, olio extravergine d'oliva, che sia insieme alla foglia, che sia insieme al pomodoro, che sia insieme alla cipolletta tagliata fine, questo tocco di pantesco sicuramente ci fa, sento già l'acquolina in bocca solo a parlarne. Anche noi, dottor Zegovesi, un'insalata molto stuzzicante, poi mi piace. Potremmo incaricare uno dei nostri figli oppure nostro marito a fare il mescolatore sapiente. E quindi così li coinvolgiamo anche nella preparazione dei pasti, che sappiamo essere molto importante anche per crescere i nostri ragazzi, i nostri figli, con una buona educazione al cibo. A proposito di buona educazione, la buona educazione non lo vorrebbe a tavola, ma sono tante le persone che se lo portano a tavola. Parliamo dello smartphone. Eccolo qua. Ecco, scusate, è una telefonata. Ecco, i miei due amici che sono con noi nella tavola virtuale della Bufala in Tavola, al suono dello smartphone, che cosa direbbero, che cosa suggerirebbero, o si guarderebbero un po' per dire, ecco, la solita maleducata. Ma, dottor Arzegovesi, Teniamo conto di una cosa fondamentale. Io direi mettetelo nella brocca dell'acqua, però mi rendo conto che sarebbe un gesto dottoressa, un po' troppo estremo. Dottoressa Titta, lei che cosa direbbe? Io direi che è una questione di gentilezza. Cioè, la gentilezza è l'ultimo lusso che ci rimane. Non mostriamoci a tavola con lo smartphone. Io lo trovo veramente una cosa troppo maleducata. Ecco, oltre che maleducata, dottor Arzegovesi, c'è una ricerca e uno studio che è andato così a quantificare e a valutare gli effetti dello smartphone a tavola. Che cosa ci racconta? Ecco, un dato molto interessante, perché ci dice, se noi attraverso uno smartphone, quindi attraverso un programma informatico in qualche modo, siamo estremamente concentrati in quello che facciamo, nello studio era un compito di valutazione della memoria di lavoro, ecco lì noi siamo talmente concentrati su quello che facciamo che tendenzialmente mangiamo di meno. Attenzione però, il nostro modo di usare lo smartphone a tavola normalmente invece è un modo che è tipo mangiare davanti alla televisione, quindi è un modo dove l'attenzione non è selettivamente focalizzata sul singolo compito, ma è come un distrattamente guardare. E questo è il modo più sicuro, vi assicuro, come dire, quantificabile, dati alla mano, per mangiare senza che ne ci accorgiamo anche un 30% in più del cibo che mangeremmo, semplicemente per avere questo tipo di effetto distrazione. Quindi mai essere distratti quando mangiamo. Dottoressa Titta, dottore Zegovesi, grazie per essere stati con noi. Fate quelli che ritornano. Ah, beh, sempre un piacere. Grazie, allora vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Un abbraccio. Grazie. Grazie. E dopo aver parlato di quelli che a tavola hanno tanto appetito o poco appetito, quelli che spizzicano, quelli che si incantano, si imbambolano con lo smartphone, parliamo di quelli che scelgono bene ma conservano male. E in linea con noi, naturalmente, non può che non esserci il nostro amico, il nostro dottor Giorgio Donegani, esperto in nutrizione e tecnologo alimentare. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, quelli che fanno bene la spesa ma poi in qualche modo si perdono, dottor Donegani, qualche indicazione, qualche dritta? Partiamo ad esempio dall'acquisto di carne e di pesce. Sì, in effetti sono tanti, per esempio quelli che hanno le macellerie privilegiate, magari fanno anche qualche chilometro per andare a comprare la carne lì perché è così buona, così ne fanno una scorta. E poi magari arrivano a casa e dice: beh, siccome non riusciamo a consumarla nei tempi giusti, la congeliamo. Ricordiamo che lo chiamiamo surgelatore, ma il congelatore di casa non si riesce a surgelare. Ecco, è un sistema per rovinarla, perché in effetti in casa si riesce appunto a congelare, non a surgelare, e questo comporta uno scadimento neanche da poco delle proprietà della carne. Lo stesso per il pesce. Se io vado a comprarmi in una pescheria, adesso sembrano delle boutique a volte, un pesce pregiatissimo, e dico: beh, però lo devo fare tra 3-4 giorni, allora è meglio che lo congeli nel frattempo. Ecco, allora proprio no, prendiamo piuttosto i congelati industriali, anzi i surgelati industriali, che sono di una qualità decisamente superiore. A proposito del pesce fresco, dottor Donegani, lo porto a casa, ma prima di metterlo in frigo, quali sono le attenzioni e le precauzioni che devo avere? Lo metto lì incartato oppure devo lavorarlo? No, fondamentale lavorarlo. Il pesce, se non l'hanno già fatto in pescheria, va sempre eviscerato con cura e lavato eventualmente, però le viscere sono il punto da cui ripartono proprio le alterazioni, e va fatto tanto più velocemente quanto più il pesce è piccolo. Se pensiamo alle alici, alle sardine che sono squisite, poi questo è un po' anche il periodo delle alici. Buone, buonissime. Squisite, sì. Solo che proprio, ecco, è già un errore pensare di le compro oggi per mangiarle domani. L'ideale sarebbe le compro oggi per mangiarle oggi. Però ecco, subito almeno eviscerarle sì, perché altrimenti vanno rapidamente in alterazione, e oltretutto non dimentichiamoci che sono pesci, le sardine soprattutto, piuttosto grassi, e più i pesci sono grassi più si alterano in fretta. Dottor Donegani, lei ha detto comprare la carne e poi metterla nel surgelatore perde molto anche come gusto, ma se io ho un macellaio di fiducia lontano, voglio comprare proprio la carne da lui perché mi dà dei pezzi particolari, non lo so, come faccio a conservarla? In alternativa, quanto tempo posso conservarla? Come? La lascio chiusa nella sua confezione? La faccio mettere sotto vuoto? Che posso fare? Sì, dunque, innanzitutto allora iniziamo a abituarci magari a comprare il pezzo piuttosto grosso di carne, e facciamoci spiegare dal macellaio come tagliarlo al momento dell'uso, perché la carne a fette si conserva molto meno che la carne in pezzo più grande. Dopodiché, se ce la facciamo mettere sotto vuoto e prendiamo l'abitudine di recarci già dal macellaio con l'idea di prendere la carne con una bella borsa con del refrigerata, a quel punto possiamo tornarcene a casa e sottovuoto un pezzo grosso può durare anche una quindicina di giorni, che per la carne non è assolutamente poco. Allora, noi ci fermiamo, ma questo è il momento migliore dell'anno in cui la frutta e la verdura sono così generose di varietà, di gusti, di sapore, ma il caldo, lo sappiamo, le sciupa. Ma non tutta la frutta, non tutta la verdura va conservata in frigorifero. Voi lo sapevate? Il dottor Donegani tra poco ci svela il posto esatto dove mettere i pomodori, dove conservare l'uva, dove conservare la cipolla. Restate. La bufala in tavola. Siamo tornati insieme con il dottor Donegani che ci racconta come, una volta fatta la spesa, conservare bene la frutta e la verdura. Dottor Donegani, non tutto va messo in frigorifero. Esatto, può sembrare strano perché sappiamo che il frigo, il freddo conserva molto bene, però per alcuni frutti, per alcune verdure, ortaggi, in effetti rischia proprio di danneggiarli. Per esempio, pomodori che siamo abituati a tenere in frigorifero, in realtà i tessuti dei pomodori col freddo tendono a deteriorarsi, ce ne accorgiamo anche quando i pomodorini diventano molli, diventano un po' grinzosi. Per quello che riguarda poi sempre gli ortaggi, le cipolle per esempio, perché tenerle in frigo non è assolutamente necessario, anzi quello che fa paura alle cipolle, quello che danneggia le cipolle sono soprattutto i raggi del sole che tendono a farle germogliare, per cui temono la luce, meglio tenerli in un posto buio e durano tranquillamente, così come l'aglio per esempio. La frutta si divide un po' in due categorie, quella che una volta staccata dalla pianta continua a maturare e emette una sostanza che si chiama etilene, un ormone proprio che serve a fare maturare i frutti, e quella che invece non lo fa. Allora, se io prendo per esempio un avocado e lo prendo piuttosto duro, questo avocado no, non lo devo mettere in frigorifero perché altrimenti lì mi si blocca la maturazione, oppure lo metto fino al momento in cui un giorno prima di mangiarlo poi lo tiro fuori e a quel punto riprende la maturazione e magari l'accelero anche mettendolo in un sacchetto di carta insieme a una mela o una banana. Insomma, in compagnia. Sì, la compagnia fa bene, li fa crescere tutti insieme. Accelerano un po' la maturazione poi certo, degli altri frutti. Molto, sì, sì. Dottor Donegani, chiudiamo con i piccoli frutti. Questo è il loro momento. Ci sentiamo sempre suggerire che i frutti di bosco, i frutti rossi sono così preziosi per la nostra salute, proteggono i piccoli vasi. Adesso è la loro stagione, finalmente possiamo mangiarli, ma si sciupano, come diciamo noi, si rovinano subito. Dove li conserviamo? Sì. In frigo purtroppo è ancora peggio, cioè vanno consumati molto in fretta. Se io non riesco a consumarli, vedo che così, allora piuttosto posso fare dei semi lavorati interessanti, in questo caso sì, piuttosto che buttar via, li schiaccio, faccio una purea, ok, e magari quella sì, nel congelatore di casa, poi mi torna buona per fare delle creme, per fare delle mousse, per fare un sacco di cose buone, mantenendo il valore dei piccoli frutti, ma non c'è verso di conservarli a lungo, purtroppo. Quindi si comprano e si mangiano, come le alici. Dai. Assolutamente, assolutamente, è la cosa migliore. Comprato e mangiato. Dottor Donegani, grazie, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Anche a lei, è sempre un piacere restare un po' con il nostro dottor Donegani che ci insegna come conservare i nostri alimenti, soprattutto come utilizzarli in modo adeguato, insomma non far pasticci. Grazie dottor Donegani, buona giornata e buona domenica. A voi, buona giornata. E adesso è arrivato il nostro momento, il momento dell'ospite di oggi. E noi continuiamo con quelli che per vivere a lungo in salute seguono tre vie, o meglio le tre vie del dottor Franco Berrino, che è in linea con noi. Buongiorno dottor Berrino. Buongiorno a tutti. Epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Dottor Berrino, sul sito della Grande Via, io lo tengo sempre sott'occhio, la Grande Via è, come i nostri ascoltatori sanno, è l'associazione che lei ha fondato insieme ad Enrica Bortolazzi, allo scopo proprio di favorire iniziative volte a promuovere la salute, il benessere e la longevità. Ho letto: il nostro organismo è stato progettato nel corso di milioni di anni e poi costruito in 9 mesi per ritrovare l'equilibrio in qualunque situazione, ma va incontro a deterioramenti che dipendono dalle difficoltà in cui lo mettiamo. Allora, dottor Berrino, ci dia lei la ricetta ha 3 ingredienti, le tre vie, per evitare di mettere il nostro organismo in difficoltà. Ma innanzitutto non sono le tre vie del dottor Berrino, sono le tre vie che ci insegnano le grandi tradizioni culturali anche del passato. Mangiamo i cibi naturali, mangiamo i cibi non trasformati dall'industria, e quindi torniamo in cucina, e se non sappiamo più tornare in cucina andiamo a fare un corso di cucina all'associazione La Grande Via. Questo è veramente molto importante. Adesso in particolare d'estate mangiamo i cibi che vanno bene d'estate, mangiamo delle meravigliose insalate con il riso integrale, con l'orzo che è molto rinfrescante, con tutte le verdure. È molto facile farsi questo cibo in casa. L'altro aspetto è quello dell'esercizio fisico, effettivamente. Siamo diventati tutti molto pigri, oppure facciamo esercizio fisico soltanto quando siamo in vacanza, anche col rischio di esagerare. Manteniamo un allenamento quotidiano tutti i giorni. Io, che ho una certa età, tutti i giorni pratico yoga perché mi mantiene flessibile, e faccio anche un po' di funzionare i miei muscoli in qualche esercizio. Faccio i miei 18 e, quando me la sento, 36 saluti al sole. Faccio yoga perché così mi permette di unire l'esercizio fisico e il piacere di ritrovare la flessibilità del mio corpo alla meditazione, perché lo yoga è una tecnica che permette di concentrarsi su se stessi facendo attenzione alla posizione, al respiro che devi prendere. Tu liberi la mente, e liberare la mente è qualcosa che ci fa molto bene, è qualcosa che riduce l'infiammazione. Adesso siamo poi in un periodo molto critico, perché ci dicono che forse riprenderà l'epidemia in autunno. Prepariamoci con quello che facciamo quest'estate per non ammalarci d'autunno. E allora vediamo di rimettere a posto lo zucchero nel sangue, di rimettere a posto i grassi nel sangue, di rimettere a posto la pressione sanguigna, e questo lo possiamo fare con il cibo, con il movimento fisico e anche con la vita spirituale. E prepariamoci così per difenderci anche dal Covid-19. E se siamo vecchi e possiamo permettercelo, stiamo lontani dalla città, perché l'inquinamento atmosferico favorisce comunque l'infezione. Dottor Berrino, vede, lei non vuole che io dica, giustamente, perché lei è un medico, un ricercatore, quindi le attribuzioni vanno ponderate, dimostrate, ma insomma queste tre vie che a me descritte dal dottor Berrino, che uniscono la saggezza antica e i dati confermati dalla ricerca, sono la ricetta per vivere a lungo sani e felici. Dottor Berrino, grazie per essere stato con noi per questa ricetta che sembra così semplice e sembra in grado di regalarci tanto benessere, e che ha tutte le conferme dalla scienza. Grazie dottore, buona domenica. Auguri a tutti. E per oggi è tutto, io vi aspetto come sempre domani 6:15 per iniziare insieme una nuova settimana. Buona giornata da Nicoletta. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.